Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo! Ci siamo! Inizia la settimana lunedì 18 gennaio. Lunedì Cardinal Giannino, eccoci qui. Io il come santo. Sai, come sai, però il santo oggi per limitazione della libertà personale ne posso citare solo uno questa volta. Perché? E chiedo agli ascoltatori di essere comprensivi. Ah, va bene. Tu già la sai la ragione e mi devo fermare a Santa Margherita di Ungheria. Margherita, Santa Margherita di Ungheria, figlia del re Bela IV, che fu mandata in convento per evitare che vincessero i tartari. Questa era. Sì. Cioè, ci sono altre sante molto interessanti, ma non questa, ne posso citare. Questa, anche la figlia di Carmelo Lauricella in regia. Margherita. Non ci prostriamo di fronte a Margherita. Sì, sì, siamo uomini liberi, ma dovunque in catene. Vabbè, ci sono altri santi, non si possono non dire. Si possono dire quando è, oggi perché scoprirete durante l'anno che ci sono tante di quelle sante margherite che io faccio gli onomastici praticamente un giorno sì e un giorno no. Perché, davvero, perché tu li festeggi poi? No, sono obbligato per contratto. Solo nel caso di mia moglie, però. E cosa devi comprare per regalo? Questo vorrei scolondirlo per l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate, l'agenzia amica. Com'è che ha detto Padoan? Ah, questa è bellissima. Pazzesco. No, perché ha detto dai, se tu convinci se un italiano convinci a pagare le tasse, il fisco ti sarà amico. Ma ti pare la più clamorosa ammissione che lo Stato non è convincente, perché lo Stato che incamera troppi soldi, troppe accise e così via, quindi ricorre a implorare, capisci, le vittime, convinci un altro a venire sul patibolo al tuo fianco. Patibolo, deve pagare le tasse, assolutamente patibolo. È quella cosa, le tasse che ci sono in tutti gli stati, non come in Italia, ecco, questo è vero, purtroppo questa è la differenza. E infatti lo Stato, pur di vi prego, venite anche voi. Ma perché farvi impiccare da soli? Portate un amico. Io porto la forca. Ma. Allora, però, amici statali e non, 800 24 00 24, vogliamo convocarvi, no? Vogliamo capire qualcosa di più con voi, se ci volete chiamare su questa storia della riforma Madia, che promette ora in 48 ore di cacciare i truffatori dei cartellini. Vogliamo sentire la signora Madia. Non capisco perché i sindacati si lamentino, non capisco perché da Brunetta i sindacati continuino a dire le norme ci sono già. Il punto è che se io ti vedo che timbri per un altro, che timbri e vai a fare un altro lavoro, quelle persone vadano a casa senza stipendio in modo quasi immediato, entro 48 ore. Io invece il mio dubbio è solo questo: il dibattito surreale che c'è in Italia è stiamo discutendo quando e come allontanare uno che truffa. Sì. Ci rendiamo conto? No, soprattutto ripetiamo ai nostri ascoltatori, per il mestiere che facciamo, noi dobbiamo dirvi con certezza che le norme ci sono già. Ma certo. Le norme c'erano nel testo unico pubblico impiego del 2001, estremamente rafforzate dalla riforma 2008-2009 del il codice disciplinare, delle norme del contenzioso disciplinare. Le norme ci sono già davvero per il licenziamento sia di coloro che usano artifici per la finta attestazione al lavoro, cioè quelli che beggiano e vanno via, sia per le false attestazioni mediche. E ci sono già previste tutte le più alte gradazioni allora dei provvedimenti disciplinari. Perché A mi viene da dire, perché c'è bisogno di un'altra norma? Ecco. E soprattutto B, perché non vengono applicate? Perché lo stesso Ichino, che ho citato, e sull'Unità, certo, un giornale molto vicino a Renzi, dice ma c'è davvero bisogno di una norma nuova? O piuttosto chiedersi perché non viene applicata quella esistente? Ecco, quella che non viene applicata è perché spessissimo per coloro che hanno applicato la sanzione disciplinare fino al licenziamento è intervenuto un giudice del lavoro che ha reintegrato dicendo no, aspettiamo l'iter della vicenda civile o penale. E questo non cambierà anche con la riforma del governo. E l'iter dura altro che 48 ore. Per il resto le 48 ore rendono più difficile il contenzioso dell'autodifesa, quindi sfoceranno in maggiori impugnative. Quindi la mia opinione Alessandro, è che il governo usa questo delle 48 ore come una grande arma di distrazione di massa. Cioè parlare di questo per non parlare di che? Per non parlare di altre difficoltà che ha, come ha fatto per questa improvvisa ondata di guerra sul contenzioso però, europeo. Però c'è da dire che la riforma Madia, cioè i 10 decreti attuativi, erano previsti. Certo, erano previsti prima. Le 48 venerdì, ore però esplodono adesso. Le 48 ore, questa vicenda è nuova. Non è che c'era la legge delega. Questo è vero, questo è vero. E soprattutto siccome interviene su una norma che c'è già, e il loro fastidio è verso chiunque dica c'è già la norma, scusate. Le 48 ore temo che non levano dal campo né il reintegro del giudice, anzi, se lo fa in 48 ore si presta più a ricorsi, dici? Non mi hanno dato tempo per spiegare. Certo, perché comunque tu potrai prendere la misura in 48 ore, ma sarai costretto col codice disciplinare che c'è oggi a dare i 30 giorni per l'impugnativa da parte del lavoratore colpito dalla misura. Quindi è una grida manzoniana. Attenti, io sono a favore, da anni mi batto per questo, però non mi piace questo modo di fare. Io seguo in maniera surreale un po' il dibattito a dire dobbiamo discutere se o non cacciare, se cacciare o no uno che truffa. Tra l'altro Ichino ha fatto notare giusto nel dibattito altri due dati interessanti. Uno, nel settore privato assenteismo del 4-5%, nel settore pubblico 12-15%. Siamo a tre volte tanto. E tra l'altro Ichino chiama in causa anche i dirigenti e dice: io per esempio farei questo. Tu dirigente trova il metodo che vuoi, ma se in un anno non abbatti a livello del settore privato l'assenteismo, ti caccio. Questa mi sembra la cosa da cui cominciare, è dall'alto. Quindi non è che Ichino se la prende con solo televisione giovedì scorso. È così che si fa. Perché se oggi la vera risposta alla tua domanda è: perché non si fa con le leggi già oggi? La risposta è i dirigenti. Questo è il punto. Che sono collusi con i politici. Però i dirigenti dovrebbero porsi il problema di controllare e attuare le misure disciplinari. Perché sempre Ichino dice: ma com'è possibile che un dirigente, in questo caso il famoso sindaco di Sanremo che ha beccato anche quelli in mutande, deve rivolgersi alla magistratura per portare avanti un iter che sembra, laddove sono accertati i fatti, chiarissimo, cioè di che cos'altro ci dovrebbe essere bisogno? Esattamente. C'è bisogno di. Quindi a maggior ragione attenti alle distrazioni di massa, perché questa rischia di essere così tanto. Comunque chiamateci su questo 800 24 00 24. Siete però a favore delle 48 ore o no? O no? Caro Oscar, tu mi hai sottovalutato Schäuble. Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, ha avuto una geniale idea, secondo me è geniale, una cosa che in Italia nessuno ha mai pensato, quella di mettere una bella tassa sulla benzina, tassa europea, per gestire la questione migranti, una tassa e sulla benzina. Come far andare, voglio dire, in Italia l'accoppiata Lega eccetera eccetera al 35%. No, però forse c'è da dire che io non lo so, ma forse in Germania non ricorrono la tassa sulla non benzina. Non ricorrono nella stessa proporzione nostra. Così come in Italia. Quindi per lui dai magari tempi è una del terremoto novità di Messina, dice, prima ancora che ci fosse una cosa la benzina. Nuova. Sì, no, io devo dire in Italia è surreale l'effetto che ha questa sua, no? Questa sua uscita. Sì. Anzi, molti l'hanno utilizzata in realtà nel giorno di fine settimana per dire: vedete, i tedeschi sono proprio sulla luna. Oramai non riescono proprio a concepire altro che non sia, però effettivamente non è una bella trovata, non è una bella trovata. Per niente. Vabbè, insomma, ma ti dirò che questo fine settimana però le notizie che mi hanno colpito sono altre. Il papà della Boschi che frequenta Mureddu e frequenta Carboni e va lì a chiedere chi bisogna mettere in banca. Hai visto? Spieghiamo chi sono, però. Come spiegheresti tu a uno giovane chi è Flavio Carboni, 84 anni? Flavio Carboni, 84 anni, uno dei più grandi faccendieri del filone post-Sindona in Italia. Quindi alle prese per decenni con le procure di tutta Italia, perché tra affari finanziari, logge segrete non dichiarate, così via, eccessi anche da parvenu all'italiana, però è uno dei personaggi più equivoci dell'intreccio tra affari e politica del nostro paese. Questo che Carboni, uno si aspetta molto lontano da questo padre di famiglia senza macchie, che il ministro Mariana Boschi vanta, ex democristianone che coi massoni non dovrebbe avere niente a che fare. Attenzione, lontano anni luce Oscar da frequentazioni improbabili, e invece andava a cercare gli amici di Flavio Carbone, come questo Mureddu, un questo altro Mureddu, però anche qui poi Vincenzo, come si chiama, Massimiliano Vincenzo Mureddu, massone dichiarato per sua stessa ammissione. Insonno da 2 anni, e comunque anche lui un personaggio che sta in affari molto equivoci, oggi con imprenditori russi che di cui non si sa nulla, suggerisce lui va a chiedere a Carboni, da loro, ma la banca a chi la dobbiamo affidare come direttore e poi generale, suggerisce capisci? Al papà della Boschi, Carboni mi ha detto prova a contattare queste persone. Allora, io mi chiedo anche perché devo dire il quotidiano Libero che 3 giorni fa ha tirato fuori questa vicenda, poi sono seguiti un po' gli atti, il Fatto Quotidiano, però i grandi giornali il Corriere della Sera adesso sì, però i grandi giornali questa storia la tengono un po' grande diversione di massa anche in sordina, no? Non lo so, grandi giornali preferiscono raccontarci come la Banca d'Italia ha lottato eroicamente per 4 anni per portare la trasparenza. Dovremmo organizzare un bel faccia a faccia tra Giannino che non lo abbia e poi il governatore Visco di Banca Italia. Ma no, ma figurati, io non avrei niente di più interessante da fare davvero. Però credo che a dirla come la dico io a loro risulti come mancanza di rispetto istituzionale, sì. Vabbè, ci chiama, caro Oscar, all'800240024, Giovanni da Pavia. Buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Ribongiorno, dica Giovanni. Allora, io sono un dipendente pubblico da circa 20 anni, nello specifico lavoro negli enti locali e mi sono occupato anche di attività sindacale in prima persona, quindi conosco benissimo la materia. Allora vorrei dire che purtroppo questa è una cosa bella, mi farebbe piacere che questo avvenisse nelle 48 ore, ma devo dare atto a Giannino che purtroppo le norme attuali non lo consentono, quindi sarà molto difficile, è un annuncio che purtroppo non credo si possa attuare. Però invece le norme attuali, cioè non quella che verrà, consentono, come dice Oscar, già di cacciare quello che, non so, facciamo un esempio, timbra per un altro, timbra per il cugino, timbra e va a fare shopping? Sono due gli aspetti, uno amministrativo e l'altro penale, quindi sono due percorsi. Quello che purtroppo io ho notato negli anni è che coloro i quali, quindi i dirigenti che sono a capo di queste strutture, sono molte volte loro che non riescono con gli strumenti che hanno ad attuare. Ma non riescono o non vogliono? Perché c'è una bella differenza. E quello poi dipende dalla persona. Certo, se uno non vuole vedere, non vede, però è molto più semplice. Cioè, se uno non vede un reato, no, ma se uno non vede un reato, però è complice di un reato, no? Se uno fa finta di non vedere un reato, soprattutto se è un dirigente. Sono dell'idea che bisognerebbe semplificare, non continuare ad inserire norme che ci complicano solo la vita. Questo è il suggerimento. Va bene, ma lei risponde alla domanda: ha timbrato? Certo, sta scherzando. Però vedi il riflesso pavloviano, certo, 8:30 e 20 secondi, ho timbrato 20 secondi fa. No, stavo scherzando. Era uno scherzo, Giovanni da Pavia, però la ringraziamo. Andiamo a Catanzaro da Sergio. Buongiorno Sergio. Buongiorno, io la ringrazio per aver avuto la possibilità di dirle quello che le sto per dire. Cioè a dire, da noi esiste un sistema di timbratura che oltre al cartellino dà la possibilità di utilizzare l'impronta digitale. Da noi cosa vuol dire? È un'azienda ospedaliera di Catanzaro. Ah, ecco. Il garante della privacy però vieta l'utilizzo dell'impronta digitale perché dice che è un dato biometrico, quando questo invece non è un dato biometrico. Sì, ma non è vero, perché si utilizza l'impronta, ma l'impronta viene trasformata in un algoritmo matematico e quindi non si depositano dati biometrici. Questo eviterebbe la duplicazione, che le persone timbrino continuamente i cartellini in doppio in triplo. Quindi lo Stato dovrebbe venirci incontro, perché noi abbiamo anche gli strumenti per poter evitare queste cose che poi vengono documentate dalla polizia, dalla Guardia di Finanza quando mettono le telecamere. Però E il fatto che ci siano persone che timbrano 6, 7, 8 cartelline, come avviene in moltissimi posti d'Italia, può essere evitato utilizzando con l'impronta. No, ma infatti, ma guardi, lei Sergio ci dice una cosa: noi siamo in Italia, dobbiamo fare il ministero della complicazione e affari semplici, perché le soluzioni poi ci sono. No, ma ci sono i testi di legge, questo è il punto. Ci sono le però leggi, ognuno deve amar dire che è lui che rifonda l'Italia, per poi lasciare le cose esattamente come stanno. Ah, questo poi è il punto tu vero. Dici, tu dici che è questo. Ma io dico che è questo. Metti dentro anche la polemica con l'Europa come arma di distrazione di massa? In questo fine settimana la metto sì, perché se uno va a vedere poi che cosa era successo, quindi che cosa è successo? Quindi serve a non far capire bene, se non a dire ragazzi, ma noi sì che adesso difendiamo l'onore dell'Italia. Tu l'hai capito? Perché per esempio sulla Bad Bank, tanto per dire, è un anno e mezzo che ci dicono che c'è questa vigorosa trattativa per gli interessi italiani e l'Europa che dice no. Posso dirti? Noi non conosciamo un solo pezzo di carta da parte del governo della Banca d'Italia che ci faccia capire su che cosa hanno trattato. Allora, per dirne una, a me piuttosto che vedere i titoli che gonfiano argomenti di tino alzato, ma ci fate capire di cosa state parlando? Ecco, per dirne allora, un'altra. Andrea da Venezia ci chiama anche. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno a tutti, è sempre un piacere ascoltarvi. Grazie. Allora, io chiamavo ovviamente per la questione della riforma Madia, che sì, in generale mi trovo ovviamente d'accordo, però poi ci si scontra con quelle che sono la realtà dell'applicazione di qualsiasi tipo di normativa sul pubblico impiego, perché è vero, gli strumenti ci sono, ma poi alla fine, anche se si arriva davanti al giudice del lavoro, il giudice del lavoro reintegra la persona, costa in fragranza, diciamo così, di reato. Io sono stato assessore in un comune piuttosto grande della provincia di Venezia e potrei scrivere un libro, piccolino magari, ma su tutte quelle che sono le vicende. Che comune, si può dire? Che comune. Ma è il comune di San Donà di Piave, sì, che è il terzo comune della provincia di Venezia. Grossetto. E perché dice potrebbe scrivere un libro? Cioè, perché ne ha viste di cotte e di crude? Perché sì, ovviamente la maggior parte dei dipendenti, io sono convinto che la maggior parte dei dipendenti sono ottime persone, però poi ci sono sempre dei casi limite dove poi, se si vuole intervenire, si fa una fatica estrema. Nel caso nostro ci sono stati più casi dove alla fine più volte siamo andati davanti al giudice del lavoro e alla fine abbiamo spesso perso. Ma perché? Perché non avevate, secondo lei, no? Perché non era stato fatto il licenziamento come andava fatto, oppure perché c'è sempre un giudice del lavoro che reintegra? Ci sono tanti cavilli e soprattutto il giudice del lavoro, diciamo così, tendenzialmente, almeno questa è la consuetudine che noi abbiamo notato, almeno in provincia di Venezia, Difende. Propende spesso per il dipendente, che anche in pieno torto alla fine ha ragione, ma ci sono volute alcuni casi, sono voluti sei cause per arrivare a un licenziamento che poi è arrivato per altri motivi. Sì. E io sono stato chiamato anche a rispondere io insieme alla giunta davanti alla Corte dei Conti, ovviamente assolti, per casi di Ah, no, ma è chiaro, però lei Andrea ci sta dicendo da amministratore o ex amministratore di un ente locale. Che magari uno ci prova, però poi il giudice del lavoro fa rimbalzare. Del resto, la vicenda della settimana scorsa di questo eroico, no? Dipendente del Ministero dello Sviluppo, delegazione di Bologna, nove anni fa, come delegato sindacale della CGIL, vede che ci sono decine di colleghi. Allora a quel punto lo dice al dirigente, il dirigente muto per 2 anni, non succede nulla, copre tutto il dirigente locale. A quel punto va in procura, 7 anni fa, dopo 7 anni si arriva alla condanna in primo grado di alcuni di questi colleghi, 1 anno e 2 mesi, che tanto andrà in prescrizione l'anno prossimo, ma nel frattempo l'azione disciplinare l'ha avuta lui, il sindacato lo ha mollato e gli altri sono ancora lì e anzi sono stati promossi e guadagnano di più. Sì. La sintesi della storia italiana. Abbastanza. C'è tempo per dare gli Oscar velocemente? Ma prima, certo, prima della pubblicità? And the Oscar goes to... Perché tu Oscar l'hai invitato Antonino Fiume Freddo, che oggi è il protagonista, è il presidente di, come si chiama? Riscossione Sicilia, cioè l'agenzia delle entrate in Sicilia. E oggi Sergio Rizzo racconta la pagina, in una pagina straordinaria sul Corriere, ma senti qui, ho visto due cifre. A Trapani, il signor Silvano Lombardo, nessuno sa chi sia, non lo so, deve 168 milioni al fisco. Eh già. E a Catania la signora Rosaria Ferlito deve 85.700.000 euro. Che è una sconosciuta, capisci? Ma ho capito, ma come si fa ad accumulare un debito di 180 milioni? Sono prestanomi di imprese di un certo tipo. Ma soprattutto mi aspettavo che tu dicessi l'uomo che mette alla sbarra finalmente i 160 politici siciliani che avevano pendenze col fisco, ma contavano sul fatto che prima del fiume freddo l'agenzia di riscossione, se eri in politico, non ti faceva niente, non ti chiedeva i soldi. Cioè, non ti mandava a titolo esecutivo. Era educata. Non ti faceva niente, era educata, non ti chiedeva i soldi. E poi dici perché Padova è costretto a dire cominciateli voi, i vostri amici, a pagare il fisco e le tasse. Ecco perché i politici non pagano e noi sì. No, io invece devo dirti, questo fine settimana la mia eroina si chiama Tsai Ing-wen. Ah. E questa pluriavvocatessa che ha studiato negli Stati Uniti, eccetera, che vince col Partito Indipendentista di Taiwan, lunga vita e onore a chi difende in maniera pacifica ma risoluta il proprio futuro, che non sia sotto il tallone dei comunisti cinesi. Ecco, questo è quello che penso in sintesi. L'editorialino di Oscar Giannino. Viva. Si potrebbe mettere l'editorialino di Giannino. No, ogni giorno è una rima troppo piccola. Vabbè, però come pillolina, Taiwan è un grande paese, loro sono pacifici, i russi come sempre i cinesi non l'hanno presa bene. Dai, state con noi, rientriamo tra pochi minuti. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Eccoci ancora qua, caro Oscar Giannino, come stai? Eccoci qua, sto benissimo, soprattutto perché dopo questa grande apertura anche all'Iran, tutti contenti sui giornali, poi oggi apprendiamo, dopo aver appreso che l'Iran l'abbiamo inutilmente sanzionato, poi oggi apprendiamo che i consiglieri guardiani della rivoluzione, che pensa in Iran, quando ci sono le elezioni, e ci sono tutte le liste dei candidati, poi dall'alto c'è una specie di cosa che decide tu, chi? Tu no. Dei famosi riformisti di Rouhani, su 3.000 ne hanno messi 30. Questo per dirci quanto è cambiata l'aria in Iran. È una buona percentuale. Si potrebbe fare anche in Italia, sulla scelta dei candidati. Dire, chi avrebbe l'autorità riconosciuta di dire ai partiti tu sì, tu no. Sarebbe da ridere. Allora, ma a proposito, parliamo un po' di... perché ce lo siamo dimenticati, ma tra poco si voterà nelle amministrative. Vogliamo parlare un po' oggi di Roma, di quello che succederà. A Roma. Salutiamo il senatore del PD Walter Tocci, buongiorno e bentrovato. Buongiorno senatore. A tutti voi. Tra l'altro ricordiamo, in passato è stato anche vice sindaco di Roma, giunta Rutelli. Tanto tempo fa. Io ci tengo personalmente a dire che è il contributore all'analisi autocritica del PD più coraggioso e approfondito che io abbia trovato, perché un anno quasi fa, quando ho scritto questo libro, ebook, in cui si rifaceva nel titolo a una città coloniale, è un verso di Pasolini e così via, in realtà l'autodescrizione delle colpe commesse dal PD, responsabilità nel non aver saputo vedere l'evoluzione della città, il programma, e mettersi e essersi messi dietro la foglia di fico della candidatura di Marino, mi parve un atto di grande coraggio e molto documentato. Io ci tengo sempre a dirlo perché... Grazie Giannino. No, ma è così. Tengo molto al suo parere. Tra l'altro con noi c'è anche Antonello Caporale, giornalista del Fatto Quotidiano. Buongiorno Antonello e bentrovato. Buongiorno a voi. È chiaro che Tocci, il nome di Giachetti, giusto per guardare a centro-sinistra del PD, è il nome che si sente di più in questi giorni. Giachetti si candida alle primarie. È il nome giusto, secondo lei, e il metodo per sceglierlo è quello giusto? Ma io ho lavorato con Roberto Giachetti per tanti anni e quindi c'è una stima personale. Roberto è una persona per bene. Poi voglio dire, insomma, che la sua formazione radicale è sicuramente una garanzia di vero democratico. E non condivido affatto il metodo che è stato seguito. È anche un po' paradossale che il PD si chiude al proprio interno in un recinto di partito a decidere le candidature. Questo è il momento dell'apertura. Avrebbe dovuto fare, dovrebbe fare, una scelta molto coraggiosa, aprire una lista civica di centrosinistra, chiamando tutte le competenze, delle forze sociali, il meglio che c'è in questa città. Il PD purtroppo oggi viene da una lunga stagione di chiusura al proprio interno e dovrebbe invece aprirsi alla società romana. Ci sono tante esperienze importanti in questa città. Senta, ma il commissario Orfini ha questa sua proposta, di cui io ripeto capisco il senso, no? Perché dopo la sconfitta con Marino, in cui però al fine dice: ah, Tocci ci sta chiedendo come se si vergognasse del nostro simbolo. Che cavolo di proposta è questa? Ma Matteo Orfini viene dalla mia stessa storia, forse, però è molto giovane, forse dimentica che negli anni 50, in un PC ancora venato di stalinismo, a Bologna, la capitale rossa del PC, beh, non si presentava falce e martello, si presentava la lista delle due torri. Questo succedeva a Bologna negli anni 50. Replica per tutta Orfini. Chiuso al proprio interno da tanti anni, in preda ai notabili, con tutto quello che abbiamo visto, che fa? Decide i candidati al proprio interno. Io la trovo... È lo stesso errore poi del 2013, quando si chiuse al proprio interno, improvvisò una candidatura senza un programma. Ed è incredibile ripetere lo stesso errore che ci ha portato alla sconfitta. Dice: i risultati si sono visti. Io suggerisco a Matteo, sì, agli altri giovani, di avere coraggio, insomma. Ecco. Il Partito Democratico, lo dice il nome, dovrebbe sapere che non basta a se stesso. Anche se resterebbe da capire se davvero, e qui vorrei coinvolgere Antonello Caporale, se davvero c'è speranza per i partiti tradizionali, diciamo così, di imporsi nuovamente a Roma dopo tutto quello che è successo. Insomma, tutti guardano con attenzione anche al Movimento 5 Stelle a dire: forse è l'occasione in cui può vincere una grande città. Antonello, tu sei d'accordo oppure alla fine sono i partiti tradizionali che riusciranno a imporsi? No, qui si sviluppa una bancarotta politica, che è quella del sistema dei partiti, per cui queste fecondazioni, continue fecondazioni in vitro, non fanno altro che ridurre e distruggere quel poco di animo popolare che c'è e di discussione civile che c'è nei partiti. Quindi, a Milano con Sala, perché è stato scelto dal Premier, e penso a Roma, dove il Premier ha scelto tutt'altra personalità, ma comunque in una solitudine che illustra come il partito sia oramai soltanto titolare di un brand e sotto tu puoi appiccicare qualunque cosa e cambiarla a cangiante. La bancarotta civile e democratica c'è perché le fecondazioni in vitro, poi quando non sono, non hanno alcun legame, senza arrivare, c'è Tocci che saluto, alle masse popolari, ma almeno a un minimo di condizione, di discussione generale, producono una bancarotta sociale, producono quello che io mi aspetto, che persino alle comunali di Roma i romani non andranno a votare. Chi votano? E per cosa? In ragione di che? E temo anche nel paradosso che ogni partito si sia fatto il suo bellissimo perdente. Sapete quelle sconfitte in cui uno spera di perdere alla grande? Ma quella qua da un po', diciamo, ma secondo me anche tu dici, per vale... un tecnico a Milano, Giachetti a Roma, però più o meno la logica è un po' quella, il perdente di lusso. Ma guarda che secondo me vale anche, però l'ho detto più volte, per il Movimento 5 Stelle, non so quanto convenga, no, Antonello Caporale, andare a governare o a tentare di governare una città complicata come Roma. No, la cosa che mi fa paura è l'approssimazione con cui si decide queste cose. Non so quando convenga. Tu, il partito, naturalmente ogni partito o movimento organizza il consenso intorno a un programma e seleziona la persona alla quale affida le maggiori chance di vittoria. Qui il problema è l'opposto. Si seleziona chi ha minori chance di vittoria e si dice, mo ti faccio vedere, a grande problema... piccola personalità, a straordinario casino gestionale, finanziario, economico, culturale, io ti metto il peggio del peggio e voglio vedere come ti comporti tu elettore. È una sfida al senso compiuto dell'intelligenza, dice fammi vedere un po' dove arriviamo. Ma perché? Perché? E in ragione di cosa? Perché Roma merita questo trattamento? Non so, e io ritengo, devo dirlo perché sembra... e che Roberto Giachetti sia una personalità forte, un radicale storico, radicale culturalmente radicale, quindi più vicino all'idea che la legge è uguale per tutti, che il garantismo è uguale per tutti, che non si ruba ed è un principio valido per tutti, sinistra e destra, che non si ruba nemmeno lo stipendio di parlamentare, perché lui è uno dei più assidui, nonché vicepresidente della Camera. Quindi è una persona, è un uomo politico giovane di valore. Ma perché mi devo raccogliere l'eredità del Premier che mi dice adesso scelgo io lì? Però ecco, posso fare una domanda a entrambi? È un limite della gestione di questa segreteria nazionale del partito? Ipotesi A. Oppure ipotesi B. È anche il segno che territorialmente adesso stiamo parlando del PD, poi può valere per tutti è ancora più grave, è evidente che Berlusconi, 50 persone, i telegiornali sembra che sia sceso di nuovo a parlare, un po', ma parliamo del PD. Oppure ipotesi B, territorialmente oramai la vita dei partiti, i leader dei partiti sono o compromessi, come è capitato a Roma, si vede nelle inchieste, o pressoché inesistenti, cioè incapaci di dire al segretario decidi tu, decidi tutto. Quale di queste due cose? Tutte e due oppure una delle due? Cominciamo da Tocci. Ma in realtà Renzi è un conservatore in questo e si affida, come i suoi predecessori, al messaggio mediatico, sul quale è anche più bravo dei suoi predecessori. Ma in realtà c'è a livello di base una grande risorsa che si potrebbe utilizzare, che nessuno ha mai utilizzato, né Bersani, né Veltroni, né D'Alema. Ma io sabato, per fare un piccolo esempio, sono andato all'Ostiense, è un'assemblea promossa da 5 donne, di giovani donne, sì. Diciamo una sala stracolma di giovani amministratori bravissimi che io conosco e seguo da tanto tempo. Però dice non hanno spazio, non hanno spazio. È un fermento formidabile. Un partito democratico, lo dice la parola, dovrebbe forse avrebbe fare dovuto tesoro. Fare il congresso invece che rimanere commissariato a oltranza. Beh, no, questo assolutamente, cioè, io trovo bizzarro che si vada alle elezioni con il commissariamento, insomma, perché chiediamo di governare la città, prima di tutto dobbiamo governare noi stessi, ma soprattutto mettere a frutto. Io sono ovviamente più ottimista di Antonello, insomma, credo che dentro il PD ci siano delle risorse molto ricche, molto importanti. Purtroppo nessun leader da quando è nato il PD ha mai pensato di organizzarlo, di farne un partito moderno, non di quelli di una volta, ma oggi è di possibile costruire dei partiti vivaci. Caporale, quanto valgono i partiti ancora oggi sul territorio? Mi sembra che sia una fatica sprecata. Ah. O è la democrazia del click, e quindi il governo attraverso il sospetto o la rete, che è la stessa cosa, un uso impersonale della fiducia, oppure c'è una gestione familistica, e quando dico familistica, proprio familistica, cioè in questi giorni, bravo, il PD e le prospettive del Partito Democratico, uno pensava che si facesse polemica la Boschi, il papà, Renzi, il papà, ammazza, sono d'accordissimo. Se l'alternativa è tra la democrazia del click e la democrazia del cazzo, come dico io, perché è quella delle genghe, beh, francamente, no, meritiamo un po' di più. Sono d'accordo con Antonello Caporale. Va bene, fermatevi qui e vi ringraziamo Antonello Caporale, Fatto Quotidiano, e il senatore Walter Toce, Partito Democratico. Grazie ovviamente per essere venuti qui. Poi insomma la questione di Roma come le grandi città è aperta, ma ce la portiamo avanti per tutta questa stagione. Ecco perché servono i segnali di distrazione, sì, di massa, caro Alessandro. Ma sul tema male. Statali, vedi come è caldo il tema. Certo. Per esempio ci chiama Mina da Salerno. Buongiorno Mina. Buongiorno. Dica. Allora, io sono una dipendente pubblica del Ministero dei Beni Culturali, ho lavorato per tanti anni in questo ministero e ho visto di tutto, e diciamo che io ritengo che la responsabilità sulla mancata applicazione della legge che esiste sul licenziamento degli statali sia solo dei dirigenti, perché non si fa, non dico che non si licenzia, ma non si fa nessun provvedimento neanche disciplinare pre-licenziamento. Nella sua esperienza, perché i dirigenti tengono gli occhi chiusi? Per ricavarne a propria volta benefici o perché sono semplicemente ignavi? Allora, guardi, il problema è questo, che ultimamente i dirigenti sono meno capaci di quelli di prima e sono più sensibili alle raccomandazioni per cui sono arrivati là. Io mi sono fatta questa idea, per cui se tu denunci cose gravissime, perché io ho denunciato cose gravissime, tipo furto di internet durante la notte per rubare, per farsi dei film, cioè scaricare dei film che vendono, timbratura di cartellini per senza presentarsi proprio al lavoro. Risultati? Risultato che io sono stata messa in mobbing, ridicolizzata, e quando ho cercato di fare un provvedimento disciplinare mi sono trovata contro un sindacato che ha lottato contro di me per difendere il proprio rappresentante, perché addirittura questi signori sono rappresentanti sindacali, capisce? Cioè, cose veramente gravissime, per cui a un certo punto, dato che questo non si riusciva a fare, e in più c'era un Brunetta che che predicava contro i fannulloni, mm-hmm, e che però faceva una legge che diceva: tu puoi andare in esonero, te ne vai a casa, mm-hmm, non fai niente, ti pago ugualmente addirittura il 50% o il 70% dello stipendio. Hai capito? È andato. No, ma è chiaro, vedi, che Mina ci racconta perché noi facciamo non male a diffidare di questi nuovi annunci. Sì, e però rimane da dire, ma giustamente alla fine di questo dice a Mina: ma chi me lo fa fare? Perché dopo aver denunciato tutto, logora, perché poi, quello, no? È quello lo spirito che messaggio diamo a chi nella pubblica amministrazione. Mi dispiace per Carmelo da Cosenza, non c'è spazio, ma lo recuperiamo nei prossimi giorni, perché a partire continueremo, da domani, tanto i decreti attuativi tema. Prima vedere cammello, come si dice, però non c'è ancora, ma comunque dovrebbe arrivare mercoledì sera. Com'è la filosofia del click e del cazzo? No, la democrazia, l'alternativa diventa, certo, l'alternativa tra la democrazia del click e la democrazia del cazzo. Va bene. L'editoriale. A domani. A domani.